diciamo che forse era già nell'aria l'anno scorso con la formazione della grossa coalizione, insomma, il merkelismo era un po' in crisi nell'ultimo periodo e questo, diciamo, è stato solo l'ultimo evento che ha portato, se così possiamo dire, alla fine di Merkel alla guida di CDU, perché comunque è bene ricordare che secondo le dichiarazioni della cancelliera rimarrà ancora al suo posto, quindi alla guida della Germania, sempre che non ci sia un cambio a breve, in quanto la situazione a Berlino è, diciamo, abbastanza movimentata. Ci si poteva aspettare quello che è successo anche in vista dei sondaggi delle elezioni in Austria e dopo quello che era successo nelle elezioni bavaresi. Diciamo che CDU e anche CSU, da non dimenticare, sono piuttosto in crisi. C'è un'emorragia di voti effettivamente nel centrodestra, voti che sono migrati verso AfD, in particolare per le politiche sull'immigrazione di Angela Merkel, quindi il famoso Wir schaffen das del 2015, e un po' sono migrati verso i Verdi che sono, diciamo, non il nuovo, perché effettivamente è un partito che esiste da molto tempo, però un partito che è riuscito a rinnovarsi e a portare, diciamo, nella politica tedesca delle istanze che erano taciute, insomma, c'era una fetta di elettorato che aveva voglia di cambiare, aveva esigenza di cambiamento e sembra che i Verdi stiano riuscendo a intercettare questo malcontento, se così lo possiamo chiamare. Alcuni osservatori dicono che questa ascesa dei Verdi non sia solo su punti, diciamo così, ecologisti, ma che riesca a declinare anche una società multiculturale in un modo che effettivamente fa breccia nell'opinione pubblica, cosa che di questi tempi in Europa, ma anche nel mondo, insomma, sembra sempre più difficile. Sei d'accordo? Sì, assolutamente. Diciamo che i Verdi non hanno parlato solo di ecologia, effettivamente, hanno parlato anche di società multiculturale e Habeck, proprio pochi giorni fa, ha dichiarato che ha criticato innanzitutto Merkel, parlando del regolamento di Dublino e di come questo vada cambiato, però sono favorevoli alla politica dell'accoglienza. Non solo, un altro grande punto dei Verdi anche la fine dell'austerity, nel senso ci si chiede: ok, avere una politica di austerity, ma che cosa ci porterà? Sta facendo bene all'Europa? Cioè, non è da chiedersi se è giusta o meno questa tipologia di politica, ma quanto poi l'Europa possa beneficiare di questo. Abbiamo visto, insomma, quanto l'austerity abbia un po' cambiato la politica europea, il malcontento verso l'Europa che si è espresso attraverso partiti populisti, come vediamo benissimo in Italia, come vediamo anche in Germania, ad esempio, con la crescita continua di AfD. Quindi diciamo che assolutamente non è solo una politica verde, ma è una politica più ampia. E questo modello, secondo te, potrebbe essere replicato anche in altri contesti europei? Beh, diciamo che in Belgio anche i Verdi stanno avendo un buon successo, quindi sì, è possibile, anche se noi in Italia al momento non, il Partito Verde è irrisorio, insomma, no? È quasi come se non esistesse, anche se poi storicamente, diciamo, è così, ha senza dubbio, però non solo da un Partito Verde, ecco, ci saranno altri partiti che probabilmente proveranno a intercettare questa tipologia di voto, questa tipologia di elettori che sono a favore di una società aperta, multiculturale, contro l'austerity. Insomma, è un po' come dire: non c'è solo il populismo di destra, e sostanzialmente i Verdi tedeschi sono una ricetta, un antidoto a questo populismo di destra che è cresciuto in Germania, quindi è molto probabile che si potrebbe spiegare anche in altri stati europei.